gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah, I love Italy. Con Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy. Sempre puntualissimi su Double RMI, questa è Radio Miami International, WRMI. Siete all'ascolto di I Love Italy, il vostro contenitore di 15 minuti che vi parla in lingua italiana. Alla conduzione e alla regia Andy Mangiarotti dallo studio dell'Oltrepò Pavese, qua dislocato a Broni nell'Oltrepò. Tra le altre cose, Broni è una ridente cittadina dove il noto stilista Giorgio Armani possiede una villa veramente bella, quindi spesso è qua, lo si vede anche tra la gente al mercato, quindi mandiamo un saluto a Giorgio Armani nel caso fosse all'ascolto, chi può dirlo. Siamo su Radio Miami International, sulla frequenza 15.770 kHz e sulla frequenza 7.730 kHz. Ci potete sentire un po' in tutto il mondo, a seconda da dove le poderose onde radio di Radio Miami arrivano. Potete anche voi partecipare alla trasmissione segnalandoci un rapporto di ricezione come fanno molti amici e molte amiche, o semplicemente mandandoci un saluto. Come potete fare? Potete visitare anzitutto il nostro sito voiceofitaly.it, oppure visitare anche il sito di Radio Miami www.wrmi.net. Qui potete appunto fare il vostro rapporto di ricezione telematico tramite il web. Se invece preferite la versione cartacea, potete scrivere direttamente una bella cartolina alla radio e ovviamente riceverete risposta e sarete menzionati negli amici ascoltatori di Radio Miami. In apertura mandiamo un saluto a Lisa Hoffer che ci fa sapere Jeff White ci ha ascoltato sui 15.770 kHz, ricezione chiara. Lei ha scritto che ha ascoltato Voice of Italy. Certo, il nostro programma si chiama I Love Italy, ma il sito è anche Voice of Italy. Ci ha ascoltato alle ore 5 p.m. di orario di Philadelphia, Pennsylvania. Thank you for listening, Lisa Hoffer. Thank you very much from Andy. This is the show Voice of Italy, I Love Italy. Thank you very much. Grazie a Lisa che ci ha ascoltato dalla bellissima Philadelphia, Pennsylvania, e un saluto a tutti voi che ci ascoltate un po' in giro per il mondo. Quindi ricordate, se volete scriverci per un rapporto di ricezione, voiceofitaly.it, doublermi.net, poi abbiamo anche la nostra mail, andrea@mangiarotti.org, ma tutto questo ve lo faccio dire in questo modo dalla nostra voce ufficiale. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Ecco qua, se volete avere maggiori informazioni potete scriverci, visitare il nostro sito, noi vi diamo tutte le informazioni del caso. In Italia, piano piano, arriva l'estate, o è già arrivato, visto le temperature, diciamo che è già arrivato l'estate. E cosa capita d'estate in Italia? Ci sono questi bellissimi cinema all'aperto, negli Stati Uniti li chiamano drive-in, qua vengono proprio chiamati cinema all'aperto, spesso con proiezioni nei parchi, luoghi molto belli dove c'è anche la possibilità di ammirare opere ancora su pellicola, proprio su pellicola, come si usava negli anni '80. E quest'oggi qua a I Love Italy vi parliamo a grandi linee di un film veramente. Inizialmente era praticamente degli articoli scritti su un giornale, poi questi articoli sono stati trasportati e hanno creato un libro, poi dal libro è stato creato il film. Sto parlando forse di uno dei personaggi più conosciuti, che ha anche cambiato, si può dire, il dizionario italiano con alcuni slang particolari introdotti proprio da questo personaggio. Questa sera qua a I Love Italy di cosa vi parliamo? Ve lo diciamo subito appena dopo il jingle. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Quest'oggi qua a Radio Miami International vi parliamo di Fantozzi. Questo grande personaggio inventato da questo grandissimo attore che è stato Paolo Villaggio, scomparso qualche anno fa. Fantozzi sicuramente è la sua opera più importante. Vi diamo anche qualche aneddoto, perché è un film talmente conosciuto che secondo me anche in tutto il mondo lo conoscono. Ci sono traduzioni in tantissime lingue di Fantozzi e anche del testo. Fantozzi praticamente era il cognome di un collega di Paolo Villaggio. Paolo Villaggio, prima di diventare attore, presentatore e regista, era un semplice impiegato di una ditta italiana. L'Italy Impianti era una ditta italiana. Fantozzi era proprio un collega di Paolo Villaggio. E questo Fantozzi praticamente si faceva sempre trascinare nelle iniziative paurose che Paolo Villaggio faceva quando lavorava come impiegato in questa ditta. E veniva chiamato proprio da questo suo collega Fantozzi, veniva chiamato erroneamente il Selvaggio, no, perché così, no, Selvaggio. Da questa situazione nascono un continuo storpimento dei cognomi, tipo Fantocci, Fantozzi, Pupazzi e così via. E praticamente si può dire che Villaggio ha avuto questa ispirazione per fare questo film, per creare questo personaggio, proprio da questo suo collega. Poi ci furono altri personaggi che tutti voi conoscete di Paolo Villaggio, Gian Domenico Fracchia, che si vedeva spesso alla Rai TV, però sicuramente la sua maschera più riuscita è quella di Fantozzi, ma non solo, perché poi Villaggio creò anche questo ragionier Filini, che potremmo definirla, era un pochino la spalla di Fantozzi, colui che lo accompagnava nelle sue avventure particolari, un po' in tutte le sue pellicole. Vediamo le esperienze quindi lavorative di Paolo Villaggio in questa azienda, in questa ditta come impiegato. Sono stati, si può dire, fonte di ispirazione per la scrittura di alcuni racconti proprio pubblicati sull'Europeo. Questi racconti avevano il titolo di Fantozzi, 1971 le prime pubblicazioni, ed erano divertenti. L'Europeo ha avuto delle tirature di copie enormi, perché, come si chiama, con questo personaggio faceva ridere un po' gli italiani. Era la prima volta magari che uno acquistava un giornale non per leggere la cronaca, ma bensì per fare due risate, e quindi l'Europeo decise di appunto trasformare questo grande successo editoriale in un libro, e viene, pensate un po', realizzata anche questo libro viene anche venduto in Unione Sovietica ai tempi, quindi immaginate, c'era il comunismo, Fantozzi veniva venduto tranquillamente anche in Unione Sovietica, perché era un personaggio mondiale, superava anche il muro di Berlino, andava oltre e veniva accettato, proprio perché lo scopo principale di questo personaggio era raccontare l'italiano medio con i suoi pregi, i suoi difetti, facendo ridere, la gente si alzava e ridendo. Ovviamente cosa è successo? Dopo questo grandissimo successo letterario, che vendette tantissime copie Fantozzi, questo libro, hanno deciso di fare un adattamento al cinema, con protagonista se stesso, proprio Villaggio. Si cercò altri attori tipo Pozzetto, la leggenda narra, ma lui non accettò di fare il personaggio di Fantozzi, quindi prese in mano le redini Paolo Villaggio. Il personaggio di Fantozzi esordisce nei monologhi proprio di Paolo Villaggio, e esordisce anche, si può dire, proprio sul grande schermo. In pratica questo personaggio metteva in evidenza, come potrei definirlo, il servilismo, la mediocrità di certi uomini facendo ridere. Però poi ci furono anche delle situazioni dove Fantozzi ribaltava la situazione diventando lui stesso, ribellandosi alle regole appunto di questa società. Tutti voi lo conoscete, anche gli amici che ci ascoltano dall'estero sicuramente conoscono Fantozzi. Sono usciti tantissimi film, il primo, quello con alla regia Luigi Sarci del 75, e il secondo, secondo me, sono i più belli, anche perché c'è un cast di eccezione. Abbiamo Anna Mazzamauro, Gigi Reder, lo stesso Giorgio Anatrelli, purtroppo prematuramente scomparso, che anche lui dà una forma, plasma questo suo personaggio di Carboni. E quindi vediamo un attimo velocemente i vari Fantozzi che sono stati creati da Villaggio e da vari registi. Il primo Fantozzi con la regia di Lucino Salce del 75, bellissimo. Poi c'è il secondo tragico Fantozzi, sempre di Luciano Salce, Fantozzi contro tutti, che vede alla regia Neri Parenti e Paolo Villaggio. Poi c'è Fantozzi subisce ancora di Neri Parenti, e qua prenderà lo scettro Neri Parenti con Super Fantozzi. Fantozzi va in pensione, Fantozzi alla riscossa, Fantozzi in paradiso, Fantozzi il ritorno, e l'ultimo del 99 per la regia di Domenico Saverni è Fantozzi 2000 la cronazione. Però sicuramente i più belli sono Fantozzi, quelli con la regia di Salce, e qualcosa di interessante di Neri Parenti e di Paolo Villaggio. Comunque un po' tutta la saga è divertente perché ruota attorno a questo personaggio che si saprà sempre, diciamo così, modernizzare, adattarsi al periodo storico, perché inizia con gli anni 70, poi arriva agli anni 80, agli anni 90, alla soglia degli anni 90, e si adatterà sempre. È stato anche un precursore dei tempi, perché in un Fantozzi c'è la scena dove praticamente i lavoratori lavorano gratis, e questo è, si può dire, è stato un'anticipazione dei tempi, perché come ben sapete in Italia c'è anche questo problema del lavoro sottopagato, il nero, e Villaggio è stato veramente un precursore del costume italiano. I film di Fantozzi, con la loro profonda ironia, hanno anticipato proprio anche le tematiche del mobbing nelle grandi aziende, introducendo proprio un vocabolario all'italiana molto particolare, come con degli slang eccezionali, come umano lei, l'aggettivo fantozziano che viene anche riportato nelle enciclopedie e nei dizionari. Oggi praticamente anche la stessa espressione alla Fantozzi, che trovate magari nei dizionari italiani, significa di essere proprio come Fantozzi. Curiosamente lo stesso destino è toccato anche all'eterno collega di Fantozzi, Filini, no? Che questo grande attore Gigi Reder, sempre solerte nell'organizzare gite e dopo lavoro, quindi uno quando si pensa a Filini si immedesima in questo personaggio, oppure anche in Calboni, Anatrelli, no? Questo personaggio di un uomo spaccone che si spaccia per miliardario, che conosce qua, conosce là, poi in fondo non conosce nessuno. Quindi io vi invito, se non l'avete mai fatto, non l'avete mai visto, di vedere, se ci ascoltate tutto il mondo, negli Stati Uniti, Fantozzi, questo film che secondo me è uno dei più belli della cinematografia italiana. Se volete farvi una risata, volete scoprire il mondo dell'Italia degli anni 70, 80, 90, ci fermiamo al 1999, guardate Fantozzi e li troverete con umorismo, ironia, satira, un mondo proprio di un'Italia giocosa, paccioccona, divertente, dove tutti si alzavano, andavano al lavoro divertendosi. Oggi magari non è più così, però riscoprite, guardate Fantozzi di Paolo Villaggio, questo grandissimo attore. Io ringrazio ancora una volta Jeff White per avermi concesso di essere in onda qua sulle magiche frequenze di Radio Miami International, Double RMI. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente, sempre qua, non vi lasciamo, con I Love Italy, voiceofitaly.it. Un abbraccio dal vostro Andreone, e ora continuo le trasmissioni di Radio Miami International. Buona vita a tutti, ciao, ciao, ciao, ciao. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy.